cazzo è? Io ho detto che poco fa c'eri tu, capitano, e gli altri, ho detto. Non ho detto niente di coso. Figlio di una gran puttana, perché non te ne vai a far culo? Falcone, froscio, paraculo, pedalata. Chiudi! Ti hai capito, mi falcone, froscio, chiudi! Ti faccio morire, ti faccio! Perché sei crepato, mi... come la frequenza è pulita e non voglio neanche che ascolti. Spegni il baracchino, faccio morire io, sono rientrato per farti morire. Guarda, vedi come la frequenza è pulita quando non sei questo pederasta di Falcone. Senti, vedi, te la portate, hai capito? Animale.